spento la TV. La televisione è un medium di massa, è proprio il medium di massa in sé. Nel momento in cui qualcuno ci ascolta nel video, ha attraverso di noi un rapporto da inferiore a superiore, che è un rapporto spaventosamente antidemocratico. Ma in genere proprio il video, le parole che cadono dal video cadono sempre dall'alto, anche le più democratiche, anche le più vere, anche le più sincere. E non la guardo.